Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E mentre continuo a ripetermi che non mi piace questa situazione, al termine del primo brano mi si avvicina un uomo trasandato, con un solo dente in bocca. Mi sorride e mi dice: mi piace quello che fai. Io sono stato uno dei primi artisti di strada in Italia. Ciao, sono Fabio De Matteis, ho 31 anni, vivo a Roma attualmente, città in cui lavoro. Sono uno psicoterapeuta e in realtà mi occupo di musica, sono un cantautore. La puntata di oggi, di giovedì 25 ottobre 2012 alle 16:04 qui a Radio 24, è dedicata a quella piccola parte artistica che c'è in ognuno di noi, anche se vi sembra che non ci sia, anche se vi sembra che sia totalmente assente. Probabilmente, se cercate bene, ce l'avete pure voi. 349-238-6666. Grazie al racconto di Fabio, che è, come dice lui, appunto uno psicoterapeuta, ma è in sostanza un musicista, vorrei insieme a voi ricordare quel piccolo mestiere artistico che avete fatto prima di diventare quello che siete. Quella piccola cosa artistica che avete fatto prima di diventare un ingegnere, un impiegato, un camionista, un cameriere, come ha fatto Marco. Ho lavorato come orchestrale, facevo il bassista anche sulle navi. Francesca, commessa al padiglione italiano a Epcot Center, Walt Disney. Però insomma, Francesca diceva, commessa, va bene che era Walt Disney World, però non è esattamente un lavoro artistico. 349-238-6666. Carlitos, chitarrista in un piano bar sui Navigli milanesi. Esistono ancora i piano bar sui Navigli milanesi. Andrea, light DJ, light J. Cos'è il light J? È quello che fa le ok, il light designer tipo. Però lo fa dal vivo, cioè lo mette con la musica più o meno, ok. Il light J in discoteca, che bei tempi. 349-238-6666. A questo proposito, e c'è una parte artistica in ognuno di noi, questa cosa la sosteneva, mi ricordo, la sentii dire da un maestro di chitarra che diceva: in ognuno di noi c'è una parte di tutto, sono le dimensioni che poi ci rendono quella cosa o un'altra, per cui in ognuno di noi c'è una parte artistica, se è piccola rimane lì, se è più grande diventi un musicista o un pittore o un attore, in ognuno di noi c'è una parte di idraulico, se è piccola sai sistemare appena un rubinetto, se è grande lo fai di mestiere. Ecco, più o meno questo mi sembra un ragionamento che non so se fila, però sembra avere un senso. E a proposito di parte artistica che è in ognuno di noi, ieri sera c'è stata questa serata che Radio 24 ha organizzato a Palazzo Reale, dove c'erano un sacco di ascoltatori della radio che si guardavano la mostra di Picasso e poi si guardavano la performance di Nicoletti, che è stata magnifica, con Nicoletti e Barbara Alberti sul palco che facevano vedere delle foto nelle quali gli ascoltatori avevano fatto un autoritratto che in qualche modo fosse picassiano, e Nicoletti dal vivo secondo me continua a dare il meglio di sé. Tra l'altro la serata era presente una signora che saluto se è all'ascolto, perché lei dice che ascolta tutto il giorno, tutti i giorni Radio 24, che a un certo punto ha chiesto la parola e ha raccontato che lei era presente alla precedente mostra di Picasso a Palazzo Reale a Milano, e la precedente mostra di Picasso a Palazzo Reale a Milano era nel 1953. A quell'epoca la mostra aveva presente anche Guernica, lì presente, che adesso diceva la guida non si sposta più da Madrid perché è 3 metri per 6, quindi è impossibile spostarla, e c'era una proiezione, ma questa signora ha provocato un applauso spontaneo perché ha detto: credo di essere l'unica che c'era allora e c'è anche oggi. 349, beh, è stata magnifica anche Barbara Alberti, che ogni volta che Gianluca Nicoletti cercava di coinvolgerla su Picasso, su quanto fosse grande come un artista, lei continuava a sostenere quanto era una merda come uomo con tutte le donne che ha avuto. Ovviamente Alberti sempre dalla parte delle donne, e anche se si parla di Picasso non si muove da lì, giustamente. 349-238-6666. Simone mi dice: anch'io sono stato attore, sono stato artista, sono stato attore nelle Cene con Delitto. Cosa sono le Cene con Delitto? No, non credo siano i giochi di ruoli, credo che ci siano proprio, sì, credo sia uno spettacolo in cui mangi e a un certo punto c'è un assassino, giusto? Cioè c'è un morto, un finto morto ovviamente, E quelli non sembra. Ah, ho capito di cosa si tratta. Avevo un'amica che lo faceva, mi pare. E poi ancora Luca, il mio mestiere attuale è l'artista. Spero che non diventi mai un prima e che non ci sia quindi un dopo. Luca è un pittore. È un pittore, tra l'altro, se guardate i suoi quadri, sono molto interessanti, li ha caricati su Facebook. E poi ogni tanto succedono cose particolari, come questa. Ci è arrivata una mail di Beatrice a proposito di artisti, a proposito di Picasso. Buonasera, vi scrivo dalla Spagna, dove imparo la lingua italiana nella scuola di lingua di Cáceres. Luti, la nostra professoressa, ha invitato i suoi alunni a partecipare al vostro programma. Vi spedisco quindi un piccolo testo su Picasso. Grazie per leggermi. Per leggermi, vabbè. Beatrice, auguri per la vostra bella iniziativa di comunicazione senza frontiere. Noi abbiamo, ragazzi, davvero? Non lo sapevo che avessimo un'iniziativa di comunicazione senza frontiere. Io credo che Beatrice intenda che dal momento che lei studia italiano, ascolta la radio, è una cosa che accade abbastanza spesso che degli stranieri ascoltino Radio 24, perché lo ricordiamolo, è l'unica talk radio rock di tutta Italia per imparare la lingua. Anche se io continuo a chiedermi, davvero, che senso ha imparare l'italiano per uno straniero? L'italiano lo parlano in Italia e nel ticinese e nella Svizzera italiana. Forse ma manco più in Albania lo parlano italiano. 20 anni fa lo parlavano. Cioè, già il tedesco, uno dice, ok, tedesco sono 70-80 milioni, ha più senso. Ma in Italia siamo 50-60 milioni. O devi venire in Italia, ma altrimenti qualcuno mi scrive al 349-238-6666, è una bella lingua. Va bene, e mi prendo questa come spiegazione. E poi ancora l'ultimo messaggio di qualcuno che ha fatto un mestiere artistico e si è pagato quindi la vita prima di fare quello che fa. Fernando, ero un pittore su vetro. Ho fatto questo lavoro per 5 splendidi anni. Adesso faccio tutt'altro lavoro, ma mi ricordo sempre di quegli anni con nostalgia. Insomma, c'è grande nostalgia per l'epoca in cui si era un artista. 349-238-6666. Non c'è nostalgia invece per Fabio, che è un artista, è uno psicoterapeuta ed è un musicista. E per suonare sfrutta qualsiasi occasione, anche quelle che gli si creano per strada. Arrivo sul lungomare a Trani alle 11 del mattino. Mi guardo attorno e vedo una città vestita di bianco, pietra, barche. Una città calda, che però sembra gelida. Inizio ad informarmi, parlo con la polizia municipale e mi dicono che per suonare in strada bisognava fare un'autocertificazione qualche giorno prima. La cosa non mi convince per un semplice fatto. Non ne sono sicuri nemmeno loro. In più, una delibera regionale non parla di alcun permesso per chi decide di esibirsi in strada. Da molti anni mi esibisco nei club, no? Nei vari locali, ma non mi bastava. Quindi ho deciso di esibirmi in strada perché credo che in strada si possa avere il contatto diretto con le persone, guardarli negli occhi, no? E quindi avere un feedback diretto da parte delle persone che mi ascoltano. Così ho iniziato un po' a girare, quindi sono stato a Roma, a Firenze, a Bologna, a Milano. Saluto e continuo il mio cammino. Tante persone, tutte un po' imbellettate. Sembra quasi di assistere a una sfilata di moda. Mi sento un po' a disagio, ma ho voglia di suonare. Per non incorrere in eventuali multe, chiedo ad alcuni ragazzi che hanno un gazebo per la raccolta delle firme la possibilità di allietare il loro tempo. Accettano. Io mi fermo, sistemo le mie cose e via con la musica. Le cose però non girano benissimo. Le persone passano e quasi si vergognano di guardare. Qualcuno canticchia, ma appunto, solo qualcuno. Succede spesso così. Non sai mai se la gente è felice di sentire della musica per strada, se ha paura che le chiedi dei soldi, o se teme di essere giudicata per il fatto che si fermano a perdere tempo. E mentre continuo a ripetermi che non mi piace questa situazione, al termine del primo brano mi si avvicina un uomo trasandato, con un solo dente in bocca. Mi sorride, mi dice: «Mi piace quello che fai. Io sono stato uno dei primi artisti di strada in Italia. Eravamo un gruppo di 10 persone. Presi l'idea ad Ischia e la portai qui, a Trani. Sappi però che questa non è una città per l'arte di strada. Quello che io faccio mi permette di incontrare persone che altrimenti non incontrerei. Persone che, come quest'uomo, rompe la barriera dell'imbarazzo e viene a parlarmi. È strano come quando sei dietro a uno strumento musicale le persone abbiano timore ad avvicinarsi. Come se quella barriera potesse essere invalicabile. Come se la musica non fosse fatta apposta per tenere insieme e non disperdersi. come se non fosse nata per farsi forza. Non lo so se sono influenzato da quello che mi ha detto quell'uomo o dal fatto che pochissimi si fermano a sentirmi suonare, ma comincio a mal sopportare questa città. Suonare senza una motivazione è molto complicato ed io inizio ad essere sconfortato. Per me la musica è espressione innanzitutto, è un canale che mi permette di comunicare i miei stati emotivi e i miei pensieri alle persone, o semplicemente delle immagini. Nel pomeriggio però fortunatamente scopro un'isola felice. È un piccolissimo locale, il Souvenir. L'ambiente è amichevole. Ci sono zollette di zucchero e caffè di moka. I ragazzi che gestiscono il posto vedono la mia chitarra e mi chiedono da dove arrivo. Ci parlo. Alla fine mi ritrovo a suonare per loro e per tutti i ragazzi che alle 4 di un pomeriggio primaverile sorseggiano un drink. E alla fine sono soddisfatto. Anche Trani mi ha ricevuto. Oh, je te déteste quand tu fais ta peste. Quand tu me testes, je pars immédiatement. Oh mon amour, franchement, je vais te dire. T'es bien pire qu'un fichu ouragan. Oh, je te déteste quand tu fais ta peste. Quand tu me testes, je pars immédiatement. Oh mon amour, franchement, je vais te dire. T'es bien pire qu'un fichu ouragan. Je sais bien, je suis coupable. Vas-y, tu peux me mettre minable. Et me traiter d'incapable, c'est le why dans la maison. Mais tu vois bien que... Io non sono un artista di strada, ma molti anni fa, lo ammetto, ci ho provato. Dal punto di vista dell'intrattenimento puro, le piazze e gli angoli delle strade sono luoghi sinceri e spietati. O sai fare qualcosa e lo sai fare bene, altrimenti nessuno si fermerà. E tantomeno nessuno ti metterà una moneta nel cappello. Capita a volte di vedere gruppi di persone assiepate attorno a qualcuno che fa qualcosa. Capita, raramente, ma capita. E di solito quello che sta succedendo è o molto forte o molto originale. Che sia un tizio che suona l'arpa o che fa musica con dei bicchieri di cristallo. La strada però è la metafora migliore quando si parla di intrattenimento. Cioè, la gente passa di lì, viene da un posto e sta andando in un altro. Non è lì per te. È lì per i fatti suoi. Ah, e per di più è pure di passaggio. Dicono che questa cosa accada allo stesso modo per la TV o per la radio, cioè che il pubblico passa da un canale all'altro e tu devi essere sufficientemente bravo da attirare la sua attenzione. La differenza sostanziale però sta proprio nel fatto che quest'ultimo, quello della TV, quello della radio, è un pubblico e l'altro invece no. O meglio, non ancora, perché uno che cammina per strada è solo uno che cammina per strada. Diventa pubblico solo nel momento in cui tu riesci a fermarlo e a tenerlo lì con quello che fai. Insomma, tutto per dire che devi sapere fare qualcosa di bello e farlo bene per richiamare l'attenzione per strada. Io a 19 anni non sapevo fare praticamente nulla molto bene. Avevo però la fortuna di aver imparato a fare una cosa che all'epoca facevano in pochi e che era piuttosto inusuale. Quei palloncini, quelli che manipolati prendono le forme più disparate. Eravamo in quattro, io, la mia fidanzata di allora, Federico e un'amica, che non ho mai capito se c'era una tresca tra loro due o meno, ma tant'è. Partimmo con il mio maggiolino verde, maggiolino del 1967, comprato per 3 milioni ad una signora che l'aveva sempre avuto in garage. Era agosto e il primo posto in cui ci dirigemmo ovviamente fu il mare, però al mare le persone fanno poco altro se non andare al mare. E quindi optammo per l'entroterra italiano. Toscana, Marche e Umbria. Arrivavamo in una piazza, accendevamo uno stereo, facevamo un semicerchio di candeline e iniziavamo a dare forma a quei palloncini. Barboncini, bassotti, fiori, spade, corazze, cappelli, cuori. Si fermava un sacco di gente, stranieri soprattutto. Noi mettevamo un cappello per terra e raccoglievamo quanto bastava per mangiare la sera e pagarsi il campeggio. La benzina della macchina no. Il maggiolino consumava, credo, 5-6, faceva 5-6 km con un litro, quindi per quello non ci bastava. Adesso ammetto che mi imbarazzerebbe un po' fare qualsiasi cosa in mezzo a una strada. Adesso io sono uno di quelli che un po' si stranisce a fermarsi a guardare qualcuno che suona o che canta in una piazza se non ci sono già altre persone ferme a farlo. Però ricordo quell'estate come una stagione inebriante in cui ci sembrava di conquistare le città in cui arrivavamo. In cui avevamo la sensazione di poter bastare a noi stessi, con quei pochi soldi che tiravamo su in un'ora di palloncini in mezzo alla strada. Ma non era esattamente libertà quella che provavo. Era solo l'idea di poter andare dove si voleva. Di avere tempo e spazio intorno buoni per noi e per quello che ci pareva meglio. Non ho mai più fatto cose in strada, ma mi tengo quella sensazione di conquista e di infinita possibilità. Un passepartout per ogni luogo. Ciao Matteo, ho fatto il writer per 15 anni, tra fughe e denunce, oggi faccio il chirurgo. Però immagino che tu non ti pagassi da vivere facendo il writer. E comunque Picasso a Milano l'ho visto meno di 10 anni fa. Hai ragione, infatti credo di aver sbagliato, nel 53 non è stata l'ultima, ma credo sia stata la prima di Picasso a Milano. Però mi ha solo colpito la signora che c'era nel 53, c'era anche ieri sera. Scrittore e poi PMI. Cosa vuol dire PMI? Se fino a PM ci arrivavo, PMI non lo so. 38 anni da Milano. Clown acrobatico e mimo con maschera neutra in un circo prima di fare l'insegnante e l'allenatore. Poi ancora, per vivere ho fatto il giornalista, il professore universitario, ho gestito uno studio medico, ora faccio il musicista e il pizzaiolo. Luca, Elisa, ho fatto l'attrice di teatro. E poi ancora, l'ultima attività artistica della mia vita, i lavoretti all'asilo nido. Antonio, quindi Antonio, proprio evidentemente la tua parte artistica è proprio molto molto piccola. Adesso funzionario in una multinazionale, facevo piccole particine per 50 euro in cene con delitto. Tornano queste cene con delitto, eh? Non ci ho mai partecipato a una cena. Dov'è che si organizzano? 349-238-6666. Tutto perché abbiamo uno che di artistico ha la parte forse maggiore della sua vita, che suona per strada, ma non solo. Si chiama, è il nome d'arte, ma vuole essere chiamato così, Fabio De Matteis. Pronto Fabio? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Ciao, sto bene, grazie. Sei tu? Sicuro, Fabio? Perché mi sembri un po' giù di voce. Sono un po' giù, il tono di voce bassa. E poi sono impegnatissimo in questo periodo, quindi... Sei impegnatissimo perché mi dicevi che praticamente esce il tuo primo album, giusto? Sì, a dicembre uscirà il mio primo album e poi sto partecipando a musicraiser.com, che è una campagna... praticamente per raccogliere dei fondi e per permettermi di avere un ufficio stampa. Scusami, hai detto che si chiama Music Razer? Musicraiser.com, dal quale praticamente ci si iscrive e poi si cerca Fabio De Matteis e si contribuisce alla colletta, insomma. Sì, cioè, in realtà non è un'offerta, nel senso che la persona contribuisce, io ho messo su delle ricompense che vanno dall'album con dedica a tante altre ricompense. Ah, ok, quindi è una sorta di fundraising, però per tirar su dei soldi per avere un ufficio stampa, cioè per poter far parlare di sé in sostanza. Praticamente sì. Ok, Fabio, tu mi racconti, la tua attività di psicoterapeuta è anche interessante però, perché mi dicevi che sei psicoterapeuta? Sì, sono all'ultimo anno di scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt. Che ha a che fare con la musica, giusto? In realtà sì, nel senso che è una psicoterapia che lavora molto con la mediazione artistica. Quindi dal teatro, drammatizzazione, alla musica, alla pittura. Ma perché io ho fatto una ricerca prima di andare in onda, però non ho capito esattamente in che modo lavora con la mediazione artistica. Cioè fai comporre musica o fai recitare? No, rispetto alla musica, ti faccio un esempio, tu provi tristezza e io ti chiedo di esprimere magari questa tristezza attraverso una melodia. Mm. O attraverso una canzone, o attraverso uno scritto, attraverso un disegno. Okay. Praticamente c'è tutta questa parte che è espressione, no? Di quelli che sono i tuoi stati d'animo. Quindi... E poi in un certo senso si va a ristrutturare un qualcosa. Senti, quindi, si chiama psicologia, scusami, psicoterapia della... Gestalt. Della Gestalt, ok. Senti, mi dici come si chiama il tuo album invece? Il mio album si chiama Io non mi fido di questo mare. E ho pensato al mare come alla metafora del mondo. Senti, e tu come esattamente che musica fai? Cantautorato, in sostanza? Sì, è un cantautorato, sì. Cantautorato italiano? Cantautorato, Sì. Canti in italiano, ovviamente, perché il titolo canto è in italiano. In italiano. Solo in italiano. Senti, allora, visto che noi abbiamo trovato in rete una tua cosa, ne sentiamo un pezzettino, ti va? Grazie, grazie. È una lunga intro questa. Come si chiama questa, Fabio? Qual è il titolo di questo brano? Io non mi fido di questo mare. Ah, perfetto, abbiamo beccato quello giusto, quindi. Cioè, questo è il singolo, di fatto, giusto? Questo è il singolo, ok. Senti, ci dici se suoni da qualche parte, in modo che magari qualcuno voglia di vederti e sappiamo dove venire a vederti. Ad oggi sto mettendo su il tour che partirà da gennaio. Non ho un po' di date, ma non so ancora quando, tra Roma, Milano. E allora dammi un indirizzo dove andare a cercarle. Ma praticamente mi trovate su Facebook sia Fabio Specchiulli De Matteis o semplicemente Fabio De Matteis. Fabio De Matteis, magnifico. Fabio, io devo mandare la borsa, quindi ti ringrazio e ti saluto, però mi raccomando, un po' più su, eh? Grazie mille. Ciao, grazie mille, buona giornata. Ciao. Ex poeta, decadente ed esistenzialista, che noia, per fortuna adesso faccio l'impiegato. È immerso nella schiuma Fabio, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, nella schiuma immagino di una vasca da bagno. È quindi sdraiato, c'è un sacco di bagno schiuma intorno e spunta giusto l'ovale del viso. Potrebbe veramente avere qualsiasi età in una foto come questa. Se non volete far vedere che età avete, fatevi una foto nella vasca da bagno con la schiuma sulla faccia. Però si vede giusto che ha la barba e la fronte un po' corrucciata. Busker, sostantivo inglese invariabile, artista di strada. Etimo, propriamente suonatore o attore ambulante. Data, prima del 198. Facciamo 1980, va? Facciamo così. Data, prima del 1980. Perché qua c'è scritto 198, ma avranno dimenticato uno zero? Beh, ma ha dato il meglio di sé Alessandra De Luca in questo dizionario. Tra l'altro, a chi mi ha chiesto, me l'hanno chiesto in tre o quattro, e quindi rispondo direttamente in onda. Mi hanno chiesto, ma Alessandra era la voce di quel programma di Radio 2 di qualche anno fa che andava in onda la sera e si chiamava Dispenser? E la risposta è sì, era lei. 349-238-6666, andiamo per ordine. PMI sta per, e se non lo sappiamo qui a Radio 24, piccola media impresa. Ciao Matteo, sono tornato sulla strada dopo 10 anni. Ho iniziato suonando la fisarmonica per arrotondare. Oggi, dopo la nascita di mia figlia, sono tornato, sempre per arrotondare, di giorno impiegato e nei weekend caricaturista. Solo questo, la strada ti tempra come il fuoco, tempra l'acciaio. In ogni caso, la libertà vera, con tutto il suo bagaglio di sfida. Ciao Marcello, il caricaturista. Credo che tutti abbiano in casa una caricatura fatta di quando... Margherita, cerca bene, te l'avranno... Dai, non dire di no, te l'avranno fatta quando eri una ragazzina. No. Non sei mai andato in un posto al mare? Io mi ricordo, dall'isola d'Elba ho ancora questa caricatura grazie alla quale scoprì di avere il nasone. Perché uno non se lo vede mai, ovviamente, no? I difetti. Poi ti fanno la caricatura e dici, ma c'ho sto naso, c'ho sta bocca. E a proposito di isola d'Elba, c'è qualcuno, Marco, che scrive, ciao Matteo, io cantavo rap al mitico Norman's Club dell'isola d'Elba. E chi se lo può dimenticare? Ce n'erano due, c'erano il Norman's e il Club 84, mi pare, all'epoca. Non so se ci sono più. Però quando, insomma, volevi fare quello grande, andavi lì. Io, essendo sempre stato uno sfigato, me ne stavo in hotel a ascoltare, tra l'altro, quelli che facevano piano bar. Come scrive Mr. Palletta, si firma lui, Mr. Palletta. Io faccio il pianista di piano bar da oltre 20 anni, giro per il mondo. Vita e lavoro precari, ma era il mio sogno e l'ho realizzato. Al futuro non ci penso. Vabbè, futuro, Mr. Palletta, a suonare, no? Avere una famiglia è pura utopia, perché sono fuori casa almeno 9 mesi all'anno, ma se tornassi indietro farei la stessa cosa. Direi, Mr. Palletta, un uomo felice. Fausto, ho fatto lo scenografo e il macchinista per qualche compagnia, ora sono un sopravvissuto e pittore nella mente. Boh, non l'ho capito. A 16 anni ho recitato nella parte di Romilde Pescatore del Fu Mattia Pascal. Mi è piaciuto tanto, ma non mi hanno più chiamato a recitare. Oggi ho 52 anni e ancora ci spero. Pina. Pina, io però mi auguro che dai 16 ai 52, in qualche altro modo tu questi anni te li sia riempiti, più o meno. Visto che, come insomma, più o meno raccontato, ho una grande passione per l'illusionismo, ho ricevuto questa mail e la voglio leggere, di una persona che adesso fa l'ingegnere, ma si è mantenuto facendo proprio l'illusionista. Caro Matteo, io sono un ingegnere e come da puntata di ieri sugli stereotipi dovrei essere la cosa più lontana che c'è dal mondo dell'arte. Ma qualche anno fa, prima di laurearmi, sono riuscito a pagarmi una parte dell'affitto facendo il mago illusionista. Tutto è cominciato quando una sera, per caso, sono finito in una trattoria della zona Isola di Milano, dietro a Porta Garibaldi. Una trattoria in cui si teneva una riunione di maghi. Che detto così sembra una roba alla Harry Potter, invece era semplicemente un appuntamento settimanale che gli illusionisti di tutta Milano si davano in quella trattoria, ogni martedì sera. Ebbi la fortuna di entrare nella sala loro riservata e lì persi la testa per il mondo dell'illusionismo. Iniziai facendo da assistente a uno di loro, era un mago mentalista. Trovava il modo per capire dove le persone avessero nascosto oggetti o quale lettera o cifra avessero pensato, senza che questi si rendessero conto del perché. Imparai da lui senza che lui mi spiegasse nulla. Lo seguii per un anno e poi provai a fare la mia prima serata. Fu un disastro. Uscì un solo numero su quattro che avevo preparato e per quanto il pubblico si dimostrasse comprensivo, tornai a casa disperato. Continuai ad allenarmi fino a che i numeri cominciarono a funzionare e poi ripresi le serate. Insomma, ho fatto l'illusionista per 5 anni. Dopo la laurea ho continuato, ma quando il lavoro mi ha portato a Dubai, dove ora vivo, purtroppo ho smesso. Penso ancora che quella parte artistica in me rimanga. E ogni tanto, in ufficio, tiro fuori una moneta o una corda e tolgo la ruggine che il tempo ha deposto sulla mia manualità. Ora mi guadagno da vivere facendo impianti di estrazioni petrolifera. Se avessi fatto il cameriere o il Pony Express, probabilmente mi sarei pagato comunque l'affitto e la rata dell'università, ma di fatto è stato quel piccolo mestiere artistico a farmi arrivare fino a qui. E quindi posso dire che l'illusionismo mi ha permesso di diventare ingegnere. Folco. Le monde est pourri, sans valeur, ça ne vaut rien. Que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long. Conoscevo un artista, anzi un mago, ha fatto un buco di 10.000 euro e poi è sparito. Questa non è male. 349-238-6666, a proposito della parte artistica che vi ha permesso di vivere, o vi permette di vivere, operatore termoplastico. Cos'è l'operatore termoplastico? Qualcuno che farà qualcosa con la plastica scaldata. Così a naso, eh? Operatore termoplastico che canta in un coro gospel di Bergamo. Carlo. Si chiamano i Sant'Antonio David Singer. Ma scusami, ma se siete di Bergamo, perché vi chiamate Sant'Antonio David Singer? Vi chiamerete Bergamo Singers. Visto che parlate di basker, ricorda il Ferrara Basker Festival. È il basker festival più grande al mondo. Ciao Luca da Ferrara. C'è qualcuno che si è sollevato giustamente per quello che ho detto, che imparare la lingua italiana se non sei italiano non serve, e mi scrivono: mio cugino è professore di italiano a Oslo da circa 20 anni e fa benissimo perché si guadagna da vivere. Se non sai l'italiano non puoi leggere la Divina Commedia, scrive Ben, e anche questo è vero. E soprattutto Luca, che scova il modo, tutti quelli che pensavano di beccare suonando la chitarra se lo dimenticano e facciano come ha fatto Luca: leggevo la Divina Commedia nelle librerie di Dublino, gli irlandesi e le irlandesi erano affascinati. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La stella di oggi era di Fabio e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Alex Bellini, vivo a Verona. La storia di domani è la mia e parla di ripartire. Questa è la mia storia e io sono qui.